luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono nel cuore della città di Milano e sono davanti alla casa di Alessandro Manzoni, il grande scrittore dell'Ottocento, il grande autore dei Promessi Sposi. Questa casa è appena stata riaperta, è stata riallestita, riordinata e ci offre l'occasione di andare veramente a visitare questo grande scrittore nella casa in cui visse per tantissimi anni, dal 1814 al 1873, l'anno in cui morì. Manzoni era venuto in questa casa con una famiglia molto numerosa, aveva la prima moglie Enrichetta Blondel, sua madre che dominò la casa finché visse, cioè la grande Giulia Beccaria, e in questa casa nacquero a ripetizione figli, addirittura 9 bambini. Purtroppo la casa venne funestata dalla morte della prima moglie Enrichetta Blondel, ma Manzoni si risposò e formò una seconda famiglia, quella di Teresa Boris Stampa e dei suoi figli. Di questa casa cosa rimane? Di originale rimane ben poco, perché tutti questi figli naturalmente si spartirono l'eredità dei mobili, però resta intatto intanto lo studio al pian terreno, che era amatissimo da Manzoni perché Manzoni poteva vedere il giardinetto che lui coltivava perché era un grande botanico, e qui naturalmente scrisse parte del romanzo e poi naturalmente ricevette i grandi della terra, vennero a trovarlo Giuseppe Verdi, l'imperatore del Portogallo, vennero personalità, Garibaldi naturalmente, quindi tutte le personalità dell'Ottocento italiano. In altri ambienti la vita familiare era più tranquilla, per esempio ci sono delle sale dove i bambini numerosi giocavano a mosca cieca, e pare che Manzoni però non fosse particolarmente incline ai giochi infantili. La casa museo raccoglie anche tantissimi cimeli naturalmente dello scrittore, le edizioni dei Promessi Sposi, l'incredibile fortuna iconografica dei Promessi Sposi, cimeli, ritratti, statue eccetera, per celebrare naturalmente uno dei più grandi italiani dell'Ottocento, uno dei padri della patria, della nostra cultura, che visse in questa casa piccola, appartata ma molto elegante.